siamo arrivati alla fine. Allora io vorrei chiamare alla mia destra, come sentite in sottofondo, vorrei chiamare prima alla mia sinistra, scusa, il nostro Pier Francesco. E anche Felicetto, Felicetto. Detto Felicetto. E come state cacando un cazzo stasera? Buonasera. Alla mia destra invece abbiamo... Ne abbiamo Angela la cubista. DJ! Ora Angela ballerà sulle note di Pier Francesco. E che cantare? Sì, però non mi guarda in questa maniera. È una cosa inaudita! A far l'amore in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i cuoci. A far l'amore ora e comunque Franca Zizzo c'è, Franca Zizzo c'è. A visco come canta bene su Facebook Franca Zizzo. DJ io! Zizzo, DJ Franca Zizzo. Ma cazzate messo così in guaggia! Casco per i Facebook, no? Quando i bambini fanno oh che meraviglia! L'imperote moneggio, l'imperote moneggio! E ora con noi c'è Felicetta! L'imperote moneggio! Innanzitutto... Progressiva! Cacciandomi tutti si presti in due! Ma per la villa che ha fatto altro! Ha fatto la ciocca da 70 anni, ha pure fatturato, ha ritenuto su e c'era nei casini. Ciao Angela! Angela! Vincimi, vai bravo! Vai, canta! Ma io ballo solamente! Balla! E non mi dite! Ma che non fa la pubblicità? Vai! Vincimi! Muoio! Un membro, vado, non struscio! Scusate, ma... Ci dovete... Da... Ora come la camera si spetta! Ma tu sei con il microfono, ma non si prendi! Oh! Mi permettete un saluto, due saluti. Il primo va a Mitch, che stasera non c'è, non possiamo sapere il motivo. Sta girando un bel porno con Felicetta. Il secondo che si vicino Berti, il secondo va a Carletto, che poverino nemmeno stasera c'è. Ringraziamo Cristina che ci ha ospitato sabato. Mamma, si ricogliati. Ringraziamo Cristina che ci ha ospitato. Grazie per la cena di sabato, mamma. Caseificio Roberti, caseificio Roberti, caseificio Roberti, caseificio Roberti, caseificio Roberti. Caseificio Roberti. Mamma, chi cena sabato? Mamma mia per Francesco. Siamo saliti a Celico con uno stereo a manetta con questa canzone. E vogliamo ricordare che molto probabilmente sabato 10, sabato prossimo, saremo all'Atarico per a fare il latte. Che c'è il cioccolato c'è? C'è la festa del cioccolato. Ecco, riusciremo parlando la bisciglia. Io pensavo che per Licori non arrivasse alla fine della puntata, ma invece Maneggio che non arriverà alla fine. Maneggio sta iniziando ad avere una crisi di identità che lo porterà a casa blanca. Manda a dire Maneggio che non imbolli ma da aspetta più calendario nanzi l'orario 7 giorni meno una mezz'oretta 5 anni e 7 giorni, ma ho capito? No 7 giorni meno una mezz'oretta meno state ferma tu Nagia sto rompolo tutto sto giorno. Cos'era una proposta per le cose di nostra conoscenza? E che? È un'information pubblicità. Oggi è lunedì, da allora su su 9 va su 9 siamo arrivati alla fine della puntata per chi non l'avesse capito. E basta, ricordiamo che sabato chi ci vuole venire a trovare all'Attarico, saremo all'Attarico col nostro stand. E c'è l'Attarico, la festa del cioccolato. Ci scusiamo per la deplorevole serata a cui avete appena assistito nella nostra... Cioè, la serata proprio più pazza. La Pierre, il nostro delegato ai rapporti con l'esterno, ha dato il peggio di sé. Si è stato impersonato dalla sindrome di Ovolo. Chissà se mi fanno le palle Madonna, liberate le palle. Ma scaggia la festa di un cioccolato. Oddio. Sono Milingo, voglio esorcizzare questa ragazza che la facciamo uscire. Cristo è con te, Cristo è con te. E te devi corcare tutti quanti e finisce si messi in scena. Oh, ah, volevo chiudere, si è appuntato. Ci sono palate, cavolo. Sto vedendo cose brutte. Vediamo Filicetti. Felicetti e Maria Francesca che litigano alla grande. Vediamo Felicetti azzoppata. Attenzione, attenzione. Maria Francesca vince. Il primo round va a Maria Francesca. Stiamo assistendo alla fine. Sul ring di Web Radio SmackDown Luzzi. Chiudiamo. Che fosse la scala di due morti, tre ferite e due dispersi. E il quattro candid. Ricordiamo. Ricordiamo che anche nei negozi di dischi e nelle edicole di musicassette, il disco nuovissimo di Zecca del nostro amico Mario Federico. Basta, ti sei incantato in lei. Ciao mamma, ciao papà, ciao mamma, ciao papà, ciao Nannuzzo, ciao a tutti. Va bene. Ah, io per ligare mi sono fatto cadere. Ci vediamo pure. Il prossimo. Oh, fast mi serva! Scusa. Vabbè, basta. Ho preso una tanto ti chiedono per lavori, Max. Ma in zucca la mandarozza. È una zocca. La mandarozza è una zoccola. E già non c'erano ricchioni, che rilassano sanno lo. L'ultima notizia è stata avvistato sollecito per i posti di Cusenzi, maneggiava microfoni. Allora, ora devo dedicare un messaggio a qualcuno che pensa, che non sa, che li copia, che ci copiano, che ci seguono, che si sorridono davanti ma che dietro ci stanno. Diciamo che vengono dalla Valle dell'Esero, non so cosa è. E dove? La Valle dell'Esero. Dove? La Valle dell'Esero. Ok. Il messaggio è partito. Va bene. Per il giovane aggiornamento chiudiamo, ci ritroviamo lunedì prossimo con una frite con la persona 1.11. Alessia, non risuscitare! Saluto a tutti! Ah, e buonanotte! Alessia. E possiamo chiudere, buonanotte! Ciao a tutti! Ciao.